storia non è mai finita lì. Vai così, vai così. La tua vita puoi smontarla e rimontarla come un film. Sia tardi, il domani è come un taxi che aspetta. Non lo guidi ma decidi, tu puoi farmi fretta. Movie, movie. Il destino è una truffa e non rende geniali. È un grassone che si abbuffa sopra le tue ali. Vai così, vai così. È una storia. Per la strada scendi nel mezzo.